Nono canto del Purgatorio dalla Divina Commedia di Dante Alighieri. Registrazione di pubblico dominio effettuata per LibriVox da Filippo Gioachin. Purgatorio, nono canto. La concubina di Titone antico già s'imbiancava al valco d'Oriente, fuor delle braccia del suo dolce amico. Di gemme la sua fronte era lucente, poste in figura del freddo animale che con la coda percuote la gente, e la notte dei passi con che sale fatti avea due nel loco ove eravamo, e il terzo già chinava in giuso l'ale. Quand'io, che meco avea di quel d'Adamo, vinto dal sonno, in su l'erba inchinai, l'ave già tutti e cinque sedavamo. Nell'ora che comincia i tristi lai, la rondinella presso alla mattina, forse a memoria dei suoi primi guai, e che la mente nostra peregrina, più dalla carne e men da pensier presa, alle sue vision quasi è divina, in sogno mi parea veder sospesa un'aguglia nel ciel con penne d'oro, con l'ali aperte e a calare intesa, ed esser mi parea là dove fuoro abbandonati i suoi da Ganimede, quando fu ratto al sommo consistoro. Fra me pensava, forse questa fiede, pur qui per uso, e forse d'altro loco, disdegna di portarne suso in piede. Poi mi parea che poi rotata un poco, terribil come folgor discendesse, e me rapisse suso infino al foco. Ivi parea che ella e io ardesse, e sì lo incendio imaginato cosse, che convenne che il sonno si rompesse. Non altrimenti Achille si riscosse, gli occhi svegliati, rivolgendo in giro e non sappiendo là dove si fosse, quando la madre da Chiron a Schiro trafuggò lui dormendo in le sue braccia, là onde poi li greci il dipartiro. Che mi scoss'io, sì come dalla faccia mi fuggì il sonno e diventai smorto, come fa l'uom che spaventato agghiaccia. Dal lato m'era solo il mio conforto, e il sole era alto già più che 2 ore, e il viso m'era alla marina torto. Non aver tema, disse il mio signore, fatti sicur che noi semo a buon punto, non stringer, ma rallarga ogni vigore. Tu sei omai al purgatorio giunto. Vedi là il balzo che il chiude d'intorno, vedi l'entrata, l'ave par digiunto. Dianzi, nell'alva che procede al giorno, quando l'anima tua dentro dormia, sovra li fiori ond'è là giù adorno, venne una donna e disse, «I son Lucia, lasciatemi pigliar costui che dorme, sì l'agevolerò per la sua via». Sordel rimase e l'altre genti forme, ella ti tolse e come il dì fu chiaro, sen venne suso, e io per le sue orme. Qui ti posò, ma pria mi dimostraro gli occhi suoi belli, quella entrata aperta. Poi ella e il sonno ad una se n'andaro. A guisa d'uom che in dubbio si raccerta, e che muta in conforto sua paura, poi che la verità gli è discoperta, mi cambiai io, e come sanza cura vide me il duca mio, su per lo balzo si mosse, e io di rietro inver l'altura. Lettor, tu vedi ben com'io innalzo la mia matera, e però con più arte non ti maravigliar s'io la rincalzo. Noi ci appressammo ed eravamo in parte che là dove pareami prima rotto, pur come un fesso che muro di parte, vidi una porta e tre gradi di sotto per gire ad essa, di color diversi, e un portier ch'ancor non facea motto. E come l'occhio più e più v'apersi, vidi il seder sovra il grado sovrano, tal nella faccia ch'io non lo soffersi, e una spada nuda avea in mano, che reflettea i raggi sì ver noi, ch'io drizzava spesso il viso in vano. «Dite, costinci, che volete voi?» cominciò egli a dire. «Ov'è la scorta? Guardate che il venir su non vi noi!» «Donna del ciel, di queste cose accorta!» rispose il mio maestro a lui. «Pur dianzi, ne disse, andate là, qui vi è la porta!» «Ed ella i passi vostri in bene avanzi!» ricominciò il cortese portinaio. «Venite dunque a nostri gradi innanzi!» Là ne venimmo, e lo scaglion primaio, bianco marmo, era sì pulito e terso, ch'io mi specchiai in esso, qual io paio. Era il secondo tinto più che perso, d'una petrina ruvida e arsiccia, crepata per lo lungo e per traverso. Lo terzo, che di sopra s'ammassiccia, porfido mi parea, sì fiammeggiante come sangue che fuor di vena spiccia. Sovra questo tenea ambo le piante l'angel di Dio sedendo in su la soglia, che mi sembiava pietra di diamante. Per li tre gradi su di buona voglia mi trasse il duca mio, dicendo: «Chiedi umilemente che il serrame scioglia!» Divoto mi gettai a santi piedi, misericordia chiesi e ch'el m'aprisse, ma tre volte nel petto pria mi diedi. Sette pi nella fronte mi descrisse col punton della spada e: «Fa che lavi, quando sei dentro, queste piaghe», disse. «Cenere o terra che secca si cavi, d'un color fora col suo vestimento», e di sotto da quel trasse due chiavi. L'una era d'oro e l'altra era d'argento. Pria con la bianca e poscia con la gialla fece alla porta sì chi fu contento. Quandunque l'una d'este chiavi falla, che non si volga dritta per la toppa, diss'egli a noi, non s'apre questa calla. Più cara è l'una, all'altra vuol troppa d'arte ed ingegno avanti che diserri, perch'ella è quella che il nodo digroppa. Da Pier le tegno. E dissemi chi erri anzi ad aprir ch'a tenerla serrata, pur che la gente a piedi mi s'atterri. Poi pinse l'uscio alla porta sacrata, dicendo: «Intrate, ma facciovi accorti che di fuor torna chi indietro si guata». E quando fuor ne cardini distorti gli spigoli di quella regge sacra, che di metallo son sonanti e forti, non rugghiò sì né si mostrò sì acra Tarpea, come tolto le fu il buono metello, perché poi rimase macra. Io mi rivolsi attento al primo tuono, e Te Deum laudamus mi parea udire in voce mista al dolce suono. Tale imagine appunto mi rendea ciò ch'io udiva, qual prendersi suole quando a cantar con organi si stea, cor sì or no s'intendon le parole. Fine del nono canto del Purgatorio.